Capitolo tredicesimo de Il fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo tredicesimo. Il lanternino. 40 giorni al buio. Riuscita, oh, riuscita benissimo l'operazione. Solo che l'occhio mi sarebbe forse rimasto un pochino più grosso dell'altro. Pazienza. E intanto sì, al buio 40 giorni, in camera mia. Potei sperimentare che l'uomo quando soffre si fa una particolare idea del bene e del male, e cioè del bene che gli altri dovrebbero fargli e a cui egli pretende, come se dalle proprie sofferenze gli derivasse un diritto al compenso, e del male che egli può fare agli altri, come se parimenti dalle proprie sofferenze vi fosse abilitato. E se gli altri non gli fanno il bene quasi per dovere, egli li accusa, e di tutto il male che gli fa quasi per diritto facilmente si scusa. Dopo alcuni giorni di quella prigionia cieca, il desiderio, il bisogno d'esser confortato in qualche modo crebbe fino all'esasperazione. Sapevo sì di trovarmi in una casa estranea e che perciò dovevo anzi ringraziare i miei ospiti delle cure delicatissime che avevano per me, ma non mi bastavano più quelle cure. Mi irritavano anzi come se mi fossero usate per dispetto, sicuro, perché indovinavo da chi mi venivano. Adriana mi dimostrava per mezzo di esse che ella era col pensiero quasi tutto il giorno lì con me in camera mia, e grazie della consolazione, che mi valeva se io intanto col mio la inseguivo di qua e di là per la casa tutto il giorno smaniando. Lei sola poteva confortarmi. Doveva! Lei, che più degli altri era in grado di intendere come e quanto dovesse pesarmi la noia, rodermi il desiderio di vederla o di sentirmela almeno vicina. E la smania e la noia erano accresciute anche dalla rabbia che mi aveva suscitato la notizia della subitanea partenza da Roma del Pantogada. Mi sarei forse rintanato lì per 40 giorni al buio se avessi saputo che egli doveva andar via così presto. Per consolarmi, il signor Anselmo Paleari mi volle dimostrare, con un lungo ragionamento, che il buio era immaginario. «Immaginario questo!» gli gridai. «Abbia pazienza, mi spiego». E mi svolse, forse anche perché fossi preparato agli esperimenti spiritici che si sarebbero fatti questa volta in camera mia per procurarmi un divertimento, mi svolse, dico, una sua concezione filosofica speciosissima che si potrebbe forse chiamare lanterninosofia. Di tratto in tratto il brav'uomo si interrompeva per domandarmi: «Dorme, signor Meis?» E io ero tentato di rispondergli: «Sì, grazie, dormo, signor Anselmo». Ma poiché l'intenzione in fondo era buona, di tenermi cioè compagnia, gli rispondevo che mi divertivo invece moltissimo e lo pregavo anzi di seguitare. E il signor Anselmo, seguitando, mi dimostrava che per nostra disgrazia noi non siamo come l'albero che vive e non si sente, a cui la terra, il sole, l'aria, la pioggia, il vento non sembra che siano cose che esso non sia, cose amiche o nocive. A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo privilegio, quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta, di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario secondo i tempi, i casi e la fortuna. E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso. Un lanternino che ci fa vedere sperduti sulla terra e ci fa vedere il male e il bene. Un lanternino che proietta tutto intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l'ombra nera, l'ombra paurosa, che non esisterebbe se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo purtroppo creder vera, fin tanto che esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua, dopo il giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarremo noi piuttosto alla mercé dell'essere che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione? Dorme, signor Meis? Segua, segua pure, signor Anselmo, non dormo. Mi par quasi di vederlo, codesto suo lanternino. Ah, bene! Ma poiché lei ha l'occhio offeso, non ci addentriamo troppo nella filosofia, E cerchiamo piuttosto di inseguire per ispasso le lucciole sperdute, che sarebbero i nostri lanternini, nel buio della sorte umana. Io direi innanzitutto che son di tanti colori. Che ne dice lei? Secondo il vetro che ci fornisce l'illusione. Gran mercantessa di vetri colorati! A me sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio d'un dato colore, In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti. Verità, virtù, bellezza, onore, che so io. E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della virtù pagana, di colore violetto, color deprimente, quello della virtù cristiana? Il lume d'una idea comune è alimentato dal sentimento collettivo. Se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell'idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza come suole avvenire in tutti i periodi che son detti di transizione. Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d'un tratto tutti quei lanternoni. Che piacere! Nell'improvviso buio allora è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine. Chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira, nessuna più trova la via. Si urtano, s'aggregano per un momento in 10, in 20, ma non possono mettersi d'accordo e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa, come le formiche che non trovino più la bocca del formicaio, otturata per ispasso da un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran buio e gran confusione. Tutti i lanternoni spenti. A chi dobbiamo rivolgerci? Indietro, forse? Alle lucerne superstiti, a quelle che i grandi morti lasciarono accese sulle loro tombe? Ricordo una bella poesia di Niccolò Tommaseo. La piccola mia lampa non come sol risplende, né come incendio fuma, non stride e non consuma, ma con la cima tende al ciel che me la diè. Starà su me, sepolto, viva. Né pioggia o vento, né in lei le età potranno. E quei che passeranno erranti al lume spento, lo accenderan da me. Ma come, signor Meis, se alla lampa nostra manca l'olio sacro che alimentava quella del poeta? Molti ancora vanno nelle chiese per provvedere dell'alimento necessario le loro lanternucce. Sono per lo più poveri vecchi, povere donne, a cui mentì la vita e che vanno innanzi nel buio dell'esistenza con quel loro sentimento acceso come una lampadina votiva, cui con trepida cura riparano dal gelido soffio degli ultimi disinganni, che duri almeno accesa fin là, fino all'orlo fatale al quale s'affrettano, tenendo gli occhi intenti alla fiamma e pensando di continuo «Dio mi vede!» per non udire i clamori della vita intorno che suonano ai loro orecchi come tante bestemmie. Dio mi vede, perché lo vedono loro, non solamente in sé, ma in tutto, anche nella loro miseria, nelle loro sofferenze che avranno un premio alla fine. Il fioco ma placido lume di queste lanternucce desta certo invidia angosciosa in molti di noi. A certi altri invece che si credono armati come tanti Giove del fulmine domato dalla scienza e in luogo di quelle lanternucce recano in trionfo le lampadine elettriche, ispira una sdegnosa commiserazione. Ma domando io ora, signor Meis, e se tutto questo buio, quest'enorme mistero nel quale indarno i filosofi dapprima specularono e che ora, pur rinunziando all'indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo che un inganno come un altro, un inganno della nostra mente, una fantasia che non ci colora. Se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e necessariamente per il famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del lanternino cioè di cui le ho finora parlato. Se la morte, insomma, che ci fa tanta paura, non esistesse e fosse soltanto non l'estinzione della vita, ma il soffio che spegne in noi questo lanternino, lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa, penoso, pauroso, perché limitato, definito da questo cerchio d'ombra fittizia, oltre il breve ambito dello scarso lume che noi, povere lucciole sperdute, ci proiettiamo attorno e in cui la vita nostra rimane come imprigionata, come esclusa per alcun tempo della vita universale. Sale, eterna, nella quale ci sembra che dovremo un giorno rientrare, mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo, ma senza più questo sentimento desidio che ci angoscia. Il limite è illusorio, è relativo al poco lume nostro, della nostra individualità. Nella realtà della natura non esiste. Noi, non so se questo possa farle piacere, noi abbiamo sempre vissuto e sempre vivremo con l'universo. Anche ora, in questa forma nostra, partecipiamo a tutte le manifestazioni dell'universo, ma non lo sappiamo, non lo vediamo, perché purtroppo questo maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere soltanto quel poco a cui esso arriva. E ce lo facesse vedere almeno come esso è in realtà. Ma no, signore, ce lo colora a modo suo e ci fa vedere certe cose che noi dobbiamo veramente lamentare, per bacco, che forse in un'altra forma d'esistenza non avremo più una bocca per poterne fare le matte risate. Risate, signor Meis, di tutte le vane stupide afflizioni che esso ci ha procurate, di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece sorgere innanzi e intorno, della paura che ci ispirò. O perché dunque il signor Anselmo Paleari, pur dicendo, e con ragione, tanto male del lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso, ne voleva accendere ora un altro col vetro rosso, là in camera mia per suoi esperimenti spiritici? Non era già di troppo quell'uno? Volli domandarglielo. Correttivo, mi rispose, un lanternino contro l'altro. Del resto, a un certo punto, questo si spegne, sa. E le sembra che sia il miglior mezzo codesto per vedere qualche cosa, m'arrischiai a osservare. Ma la cosiddetta luce, scusi, ribatté pronto il signor Anselmo, può servire per farci vedere ingannevolmente qua, nella cosiddetta vita. Per farci vedere di là da questa, non serve affatto, creda, anzi, nuoce. Sono stupide pretensioni di certi scienziati di cuor meschino e di più meschino intelletto, i quali vogliono credere per loro comodità che con questi esperimenti si faccia oltraggio alla scienza o alla natura. Ma no, signore, noi vogliamo scoprire altre leggi, altre forze, altra vita nella natura, sempre nella natura, per bacco, oltre la scarsissima esperienza normale. Noi vogliamo sforzare l'angusta comprensione che i nostri sensi limitati ce ne danno abitualmente. Ora, scusi, non pretendono gli scienziati per i primi ambiente e condizioni adatti per la buona riuscita dei loro esperimenti? Si può fare a meno della camera oscura nella fotografia? E dunque, ci sono poi tanti mezzi di controllo. Il signor Anselmo, però, come potei vedere poche sere dopo, non ne usava alcuno. Ma erano esperimenti in famiglia. Poteva mai sospettare che la signorina Caporale e Papiano si prendessero il gusto d'ingannarlo? E perché poi, che gusto? Egli era più che convinto e non aveva affatto bisogno di quegli esperimenti per rafforzar la sua fede. Come uomo da benissimo che era, non arrivava a supporre che potessero ingannarlo per altro fine. Quanto alla meschinità affliggente e puerile dei risultati, la teosofia si incaricava di dargliene una spiegazione plausibilissima. Gli esseri superiori del piano mentale o di più su non potevano discendere a comunicare con noi per mezzo di un medium. Bisognava dunque contentarsi delle manifestazioni grossolane di anime di trapassati inferiori, del piano astrale, cioè del più prossimo al nostro, ecco. E chi poteva dirgli di no? Asterisco. Fede, scriveva maestro Alberto Fiorentino, è sustanzia di cose da sperare e argomento e prova di non appariscenti. Nota di Don Eligio Pellegrinotto.